Questo CD ha dei versi, ma non ha un verso. Paura di essere visto durante l'autoretismo come creazione del concetto di ogni presenza. Vandalismo spicciolo di maggiorenni, istrionismo conseguenza della consapevolezza di essere ammirato. Sfondo del desktop con paesaggi naturali solo per sentirsi meno alienato. La tipa che ho ospitato, che non credeva nell'AIDS, dicendo che esiste solo temi, nel dubbio il bagno io dopo l'ho disinfettato. Estremismo etico non giustificato, non una minaccia estrema, a.k.a. straight edge italiano. Ragazza con misticismo come cosmetico, dare importanza a quello che gli altri pensano del tuo gusto estetico. Selettività della scelta sessuale azzerata dall'abuso alcolico, non aprire il menù della contingenza e chiedere al cameriere rifiuto sessuale, farcito di scuse irreali che mascherano l'impronunciabile. Non mi ecciti. Citazione boriosa, onicofagia, scaccolarsi con l'odore di aglio, benzina sulle mani. Prigioni, manicomi e CPT come discariche sociali, consigli musicali, critiche di anziani davanti ai cantieri. Ossessione salutista senza limiti, facilitata dall'invisibilità dei batteri. Ritornelli pop che ti ritrovi a canticchiare durante faccende domestiche. Rapporto a tre. Non con due uomini, solo se ne sono due lesbiche. Odio dall'America incosciente dell'impero fondato sul guadagno oltre le nazioni. Complimenti come velate, autoaffermazioni. Consigli oggettivi che non hanno palle di farsi critiche soggettive, manifestazione politica del colpevole che ha trovato un capro espiatorio, insonnia volontaria, discussioni astratte proprio perché fatte con chi temo comprende i punti di partenza concreti, uso di medicinali autoprescritti con dubbi causati dall'incomprensione del foglio illustrativo, invenzione delle cause di un male non riuscendo ad accettarlo privo di un motivo, concerto di clacson, interessarsi alla politica solo per la legalizzazione delle droghe, fretta mattutina che fa dimenticare i sogni, chi si suicida per paura di vivere, chi invece ha paura di vivere ma non si suicida e quindi ha una paura in più, troppe per i miei gusti, che palle la lamentele come questa.